voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Sesta puntata. Confidenze più d'una. Le ragazze si erano ritirate e solo la signora Tischer, in veglia solitaria, attendeva la nuova allieva. Poiché avrebbe diviso la stanza con Rosa, non ci fu bisogno di molte presentazioni o spiegazioni prima di essere affidata alla sua nuova amica e lasciata per la notte. «Che gran sollievo, mia cara», disse Elena. «Sono stata in ansia tutto il giorno di trovarmele addosso tutte quante». «Non siamo in molte», rispose Rosa, «e siamo delle brave ragazze, perlomeno le altre. Garantisco per loro». «E per te garantisco io», rise Elena, scrutando il visetto grazioso con i suoi ardenti occhi scuri e carezzandola con tenerezza. «Mi sarai amica, vero?» «Spero di sì, ma l'idea di essere amica tua mi pare così assurda». «Perché? Io sono solo un esserino e tu sei così donna e così bella. Sei tanto forte e decisa che potresti schiacciarmi. Solo a starti accanto mi sento sparire». «Sono una creatura negletta, priva di educazione, dolorosamente consapevole di avere tutto da imparare e piena di vergogna nel dover riconoscere la mia ignoranza». «Ma tutto questo lo confidi a me», disse Rosa. «Mia graziosa ragazza, come posso farne a meno? Hai molto fascino. Peccato che il signorino Eddie non se ne accorga un po' più spesso». Naturalmente era già stata informata in canonica sulla relazione col giovane gentiluomo. «Ma come? Non ti ama con tutto il cuore?» «Ma sì, penso di sì», disse Rosa di nuovo imbronciata. «Di sicuro non ho il diritto di dire che non è vero. Forse è colpa mia. Forse non sono abbastanza gentile con lui. Penso di non esserlo. Ma è talmente ridicolo». Gli occhi di Elena chiesero cosa lo fosse. «Noi», disse Rosa, rispondendo come se avesse parlato. «Noi siamo una coppia così ridicola. E poi litighiamo in continuazione». «Perché?» «Perché lo sappiamo tutte e due che siamo ridicoli, mia cara». Rosa rispose come se fosse quella la risposta definitiva. Elena la fissò intensamente per un po' e poi, d'impulso, tese le mani e disse: «Mi sarai amica? Mi aiuterai?» «Ma certo che lo farò», rispose Rosa con un tono affettuoso e infantile che le andò dritto al cuore. «Ti sarò amica per quanto un esserino come me può esserlo con la nobile creatura che sei tu. E per favore, anche tu, sia amica mia, perché io non capisco me stessa e ho bisogno, ne ho tanto, di un'amica che mi capisca». Elena Landless la baciò e tenendole le mani disse: «Chi è Jasper?» Rosa distolse lo sguardo nel rispondere: «Lo zio di Eddie e il mio maestro di musica». «Non lo ami?» Si portò le mani al viso e tremò di paura o di orrore. «Lo sai che ti ama? Non parlarmi di questo, mi terrorizza. Mi entra nei pensieri, mi perseguita come uno spettro spaventoso. Sento di non essere mai al sicuro da lui. Sento come se potesse passare attraverso il muro quando si parla di lui». In effetti si guardò intorno quasi temendo di vederlo in piedi nell'ombra alle sue spalle. «Cerca di dirmi qualcosa di più, tesoro». Sì, lo faccio, perché tu sei così forte. Ma tienimi stretta e non lasciarmi. Bambina mia, parli come se in qualche modo oscuro ti minacciasse». «Non mi ha mai parlato di questo, mai». «Cosa ha fatto?» «Con i suoi sguardi mi ha resa schiava. Mi ha forzata a capirlo senza dire una parola. E mi ha forzata a mantenere il silenzio senza esprimere una minaccia. Quando suono, non mi stacca gli occhi dalle mani. Quando canto, non mi stacca gli occhi dalle labbra. Quando mi corregge e suona una nota o un accordo, un brano, lui stesso è nei suoni e mi sussurra che mi ama e mi vuole e mi ordina di mantenere il segreto. Evito i suoi occhi, anche quando si fanno vitrei, come accade qualche volta, e lui sembra vagar via dentro un qualche sogno pauroso e la minaccia si fa estrema, mi costringe a saperlo e a sapere che lui mi siede accanto, per me più tremendo che mai. Cos'è questa minaccia immaginaria? Cosa viene minacciato? Non lo so. Non ho nemmeno mai osato pensare o chiedermi cosa sia. Ed è stato così stasera? Sì, tranne che mentre cantavo e lui mi fissava così intensamente la bocca, oltre a essere terrorizzata, ho provato vergogna e mi sono sentita ferire fin dentro l'anima. Era come se mi baciasse e non sono riuscita a sopportarlo e ho gridato. Non devi farne parola a nessuno. Eddie gli è molto legato, ma stasera hai detto che tu non ne avresti paura in nessun caso e questo mi dà coraggio, con tutta la paura che ho di lui, di confidarmi solamente con te. Tienimi stretta, non mi lasciare, sono troppo impaurita per restare da sola. Il luminoso volto zingaresco si chinò sulle braccia che le si avvinghiavano e sul petto di rosa, e la selvaggia chioma nera ricadde protettiva sulla sua figura di bambina. Un bagliore di fuoco covava negli intensi occhi scuri, sebbene fossero allora inteneriti da compassionevole ammirazione. Stia in guardia, chiunque ne sia l'oggetto. Ai ferri corti. I due giovani, dopo che le damigelle di cui si sono presi cura sono entrate nella casa delle monache, sentendosi osservati dal gelido sguardo della targa d'ottone, come se il vecchio, malandato da Merino col monocolo, facesse l'insolente, si guardano l'un l'altro, guardano lungo la strada illuminata dalla luna e lentamente si allontanano insieme. «Vi fermate a lungo, signor Drood?» dice Neville. «Stavolta no», è la noncurante risposta. «Riparto per Londra domani, ma qualche scappata la farò da qui all'estate. Poi prenderò commiato da Cloisterham e anche dall'Inghilterra per un bel po' di tempo, immagino. Siete studente?» «Studente», ripete Edwin Drood con una sfumatura sprezzante. «No, mi aspetta l'azione, il lavoro, l'attività di ingegnere. Mio padre, che era socio della ditta dove sto io, ha lasciato un piccolo patrimonio come quota del capitale. Fino alla maggiore età sono stipendiato, dopodiché diventerò azionista per la piccola parte che mi spetta. Fino ad allora è Jack, l'avete incontrato a cena, che mi fa da tutore e amministratore. Ho sentito dal signor Crisparkle dell'altra vostra fortuna. Cosa intendete con l'altra mia fortuna?» Si fermano, scambiandosi uno sguardo piuttosto acceso. «Spero», dice Neville, «di non avervi offeso, signor Drood. Tutti i pettegoli di Cloisterham non parlano d'altro. Mi meraviglio che non abbiano ancora aperto la locanda dei promessi sposi, mettendoci il mio ritratto come insegna, o quello di Pussy. Francamente, non mi sento responsabile se il signor Crisparkle ha accennato all'argomento», inizia Neville. «No, non lo siete, questo è vero», concorda Edwin Drood. «Ma sono responsabile di averne parlato. E se l'ho fatto è perché immaginavo che doveste esserne molto orgoglioso. Ora va detto che le molle segrete di questo dialogo sono azionate da due tratti curiosi della natura umana. Neville Landless è già colpito dalla piccola boccia di rosa, abbastanza da sentirsi indignato che Edwin Drood, di tanto inferiore a lei, tenga in così poco conto la sua fortuna. Edwin Drood è già colpito da Elena, abbastanza da sentirsi indignato che suo fratello, di tanto inferiore a lei, lo liquidi con tale freddezza, mettendolo totalmente fuori gioco. comunque è il caso di rispondere all'ultimo commento. E allora Edwin dice: non mi pare, Neville, adottando la forma usata da Chris Sparkle, che quanto più uno abbia motivo d'orgoglio, tanto più ne parli. E non mi pare neanche che gli garbi che di questo suo motivo d'orgoglio ne parlino gli altri. Ma la mia è una vita industriosa e mi rimetto al giudizio di voi studenti che dovreste saper tutto e oso dire che sapete tutto. A questo punto sono furiosi entrambi. Neville palesemente, Edwin Drood sotto la trasparente copertura di una canzonetta e di una sosta ogni tanto fingendo di ammirare gli effetti pittoreschi del chiaro di luna. Non mi sembra molto civile da parte vostra, osserva Neville alla fine, offendere un forestiero che arriva qui tentando di recuperare il tempo perduto non avendo avuto i vostri stessi vantaggi. Ma di sicuro non sono stato allevato per una vita industriosa, io. E le mie idee di civiltà me le sono formate tra i pagani. Forse la miglior forma di civiltà, indipendentemente da dove siamo stati allevati, ribatte Edwin Drood, è di badare ai fatti vostri. Datemi voi l'esempio e io lo seguirò. Lo sapete? Siete un po' troppo supponente, è la replica irata. E nella parte del mondo da cui provengo sareste chiamato a risponderne. Per esempio, da chi? Chiede Edwin Drood, fermandosi e osservando l'altro con uno sguardo sprezzante. Ma qui una mano destra si posa sulla spalla di Edwin, che trasale, e Jasper compare in mezzo a loro. Si direbbe che anche lui abbia vagabondato dalle parti della casa delle monache e li abbia seguiti sul lato buio della strada. Su, adesso basta. Questa cosa non mi piace affatto. Vi ho sentiti per caso che alzavate la voce. Ricordati, mio caro ragazzo, che stasera ti trovi quasi nella posizione di padrone di casa. In un certo senso tu appartieni al luogo e per così dire lo rappresenti nei confronti di un forestiero. Il signor Neville è un forestiero e tu dovresti osservare i doveri dell'ospitalità. E voi, signor Neville, posando la mano sinistra sulla spalla interna del giovane, dunque continuando a camminare in mezzo a loro due una mano per spalla, mi dovete perdonare, ma esorto anche voi a tenere a freno il vostro temperamento. Allora, cosa c'è che non va? Ma perché chiederlo? Facciamo in modo che non ci sia niente che non va e la domanda diventa superflua. Noi tre ci intendiamo, giusto? Dopo una lotta silenziosa tra i due giovani su chi debba parlare per ultimo, Edwin Drood interviene. Per quanto mi riguarda, Jack, non sono arrabbiato. Jasper, camminando ancora al centro, una mano per spalla, melodiosamente intona il ritornello di una canzone conviviale. E tutte e tre vanno a casa sua. Lì, il primo oggetto visibile, quando aggiunge la luce di un lume a quella del fuoco, è il ritratto sopra il camino. Non è un oggetto calcolato per migliorare l'intesa tra i due giovani, ma volto piuttosto a ravvivare maldestramente l'argomento del loro diverbio. Di conseguenza entrambi lo guardano consapevoli, ma senza dir nulla. Jasper, invece, che a giudicare dalla sua condotta, sembrerebbe non avere che un'idea confusa sul motivo del recente litigio, lo chiama in causa direttamente. Riconoscete quel ritratto, signor Neville? Schermando la lampada in modo che la luce lo illumini. Lo riconosco, anche se non rende affatto giustizia all'originale. Siete troppo severo. L'ha fatto Ned e me l'ha regalato. Mi dispiace, signor Drood, si scusa Neville, sinceramente intenzionato a farlo. Se avessi saputo di trovarmi in presenza dell'artista... Oh, non è che uno scherzo, solo uno scherzo, lo interrompe Edwin, sbadigliando provocatorio. Una blanda presa in giro dei tratti di Pussy. Un giorno o l'altro le faccio un ritratto serio, se fa la brava. Il tono di pacato paternalismo e indifferenza di questo commento, mentre il parlante si lascia cadere in poltrona, intrecciando le mani dietro la testa a mo' di appoggio, è esasperante per l'eccitabile ed eccitato Neville. Jasper guarda attentamente dall'uno all'altro, sorride lievemente e si mette di schiena a mischiare del vino speziato sul fuoco. La cosa sembra richiedere un gran mischiare e mescolare. «Suppongo, signor Neville», dice Edwin, pronto a risentirsi per l'indignata protesta dipinta sulla faccia del giovane Landless, in piena vista come il ritratto o il fuoco o il lume. «Suppongo che se faceste il ritratto alla vostra innamorata, non so dipingere», è la concitata interruzione. Jasper volta le spalle al fuoco, riempie un grosso boccale per Neville, riempie un grosso boccale per Edwin e li porge ad entrambi. Poi versa per sé dicendo: «Su, signor Neville, prendiamo la salute di mio nipote Ned. Visto che metaforicamente nella staffa c'è il suo piede, è a lui che va dedicato il bicchiere della staffa. Ned, ragazzo carissimo, con tutto il mio affetto». Jasper dà l'esempio, vuotando quasi del tutto il bicchiere, e Neville lo segue. Edwin Drood dice «Molte grazie a tutte e due» e segue il doppio esempio. «Ma guardatelo», esclama Jasper. «Eccolo lì, beato e indolente. Ha il mondo davanti a sé, non ha che da scegliere. Una vita di lavoro e interessi stimolanti, una vita di eccitazione e cambiamento, una vita di serenità domestica e amore. Ma guardatelo». La faccia di Edwin Drood si è rapidamente e notevolmente arrossata per il vino. Lo stesso è accaduto alla faccia di Neville Landless. Edwin è ancora abbandonato in poltrona, con le mani intrecciate a mo' di appoggio per la testa. «E lui non se ne cura», prosegue Jasper in vena di canzonarlo. «Gli fa fatica a cogliere dal ramo il frutto dorato che è lì per lui. E pensate che contrasto, signor Neville, per noi due che niente prospettive di lavoro e interessi stimolanti, niente eccitazione e cambiamento, niente serenità domestica e amore. La nostra unica prospettiva, a meno che non siate più fortunato di me, il che può sicuramente essere, è la vita tediosa e sempre uguale di questa monotona città». «Sull'anima mia, Jack», dice Edwin, compiaciuto, «mi sento quasi in colpa per avere la strada spianata che descrivi. Ma tu sai quel che so io, e dopo tutto potrebbe non essere così facile come sembra. Non credi, Pussy?» Verso il ritratto con uno schiocco delle dita. «Tu lo sai cosa intendo, Jack». Il suo eloquio si è fatto impastato e indistinto. Jasper, quieto e controllato, guarda Neville come in attesa di una risposta o di un commento. Quando Neville parla, anche il suo eloquio è impastato e indistinto. «Al signor Drood avrebbe giovato conoscere qualche avversità», dice con aria di sfida. «Prego», replica Edwin semplicemente volgendo gli occhi da quella parte. «Perché avrebbe giovato al signor Drood conoscere qualche avversità?» «Sì», assente Jasper con aria interessata. «Sentiamo, perché?» «Perché», dice Neville, «l'avrebbe reso più consapevole di una buona sorte che non dipende necessariamente dai suoi meriti». Jasper rapidamente guarda il nipote in attesa della replica. «E voi ne avete conosciute di avversità, se è lecito?» dice Edwin Drood raddrizzando la schiena. Jasper rapidamente guarda l'altro in attesa della replica. «Sì, ne ho conosciute. E a voi di cosa vi han reso consapevole?» Il gioco di sguardi di Jasper dall'uno all'altro si mantiene costante per tutto il dialogo fino alla fine. «Ve l'ho già detto una volta stasera. Non avete fatto niente del genere. E io vi dico di sì, che siete un po' troppo supponente. E avete aggiunto dell'altro, se ricordo bene. Sì, un'altra cosa l'ho detta. Ditela di nuovo. Ho detto che nella parte di mondo da cui provengo sareste chiamato a risponderne. Solo laggiù?» grida Edwin Drood con aria sprezzante. «Molto lontano da qui, giusto?» «Sì, ho capito. A distanza di sicurezza. Diciamo qui, allora», ribatte l'altro, alzandosi furioso. «Diciamo dovunque. La vostra vanità è intollerabile, la vostra presunzione supera ogni limite. Parlate come se foste un trofeo raro e prezioso, invece di un comune spaccone. Ah!» dice Edwin Drood, altrettanto furioso, ma più controllato. «E voi come fate a saperlo? Sapreste distinguere un comune negro o un comune spaccone negro se lo vedeste? E di sicuro le vostre conoscenze spaziano in quel campo, ma non siete in grado di giudicare un bianco». L'offensiva allusione alla sua pelle scura fa infuriare Neville a un punto tale di violenza che getta in faccia a Edwin Drood i fondi del vino e sta per lanciargli contro anche il boccale quando il braccio gli viene bloccato da Jasper appena in tempo. «Ned, ragazzo mio», grida a gran voce, «ti prego, ti ordino, sta fermo». Tutti e tre si sono mossi con irruenza, tra tintinnio di bicchieri e sedie rovesciate. «Signor Neville, vergogna! Datemi il bicchiere! Aprite la mano, signore! Voglio che me lo diate!» Ma Neville lo ricaccia indietro e rimane fermo per un istante, stravolto dall'ira, col boccale stretto nella mano alzata. Poi lo scaraventa sotto la grata del cammino con tanta forza che le schegge schizzano tutti intorno. E poi se ne va. Non appena esce nell'aria notturna, nulla intorno a lui è fermo fisso, nulla intorno a lui appare com'è. Sa solo di essere lì, in piedi, a testa scoperta, dentro un vortice rosso sangue, in attesa di essere assalito e deciso a lottare fino alla morte. Ma visto che nulla accade e la luna lo guarda dall'alto come fosse morto dopo un attacco d'ira, ferma il maglio a vapore che gli martella testa e cuore e si allontana barcollando. Poi ricorda vagamente di essersi sentito chiudere, serrare fuori, come un animale feroce, e pensa: cosa faccio? Le idee sconvolte e selvagge suggerite dal fiume si dissolvono nell'incanto del chiaro di luna sulla cattedrale e sulle tombe. E nel ricordo di sua sorella e nel pensiero di quanto deve all'uomo buono che quello stesso giorno ha conquistato la sua fiducia e gli ha promesso comprensione. Cerca rifugio alla canonica e bussa piano alla porta. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.